prima linea per le masse. Fra le nostre liriche sono sempre più classe, rime sature, iconoclaste. Serriamo le file, perché è così che va, questione di stile. Radio Trama Man, siamo qua, pronti a fare fire su questa città. Radio Trama Man, Trama Man, Trama Man, io lo faccio solo per chi dice vai fra. Zero dara lì, zi con sa. Qui si muove il culo solo col gran ras. Porto l'umiltà di chi ne sa. Zero puttanate, solo realità. Potenza lirica che ti piglia bene, con la strada che disegno adesso ti conviene. Preme, progettare una nuova rotta. Non si va più avanti con i sette in condotta. È una botta che ti stende se metti in rotazione. Questo sound ti spacca in ogni situazione. Sempre in azione si sta sotto pressione. Missione, apri dal rap il culo di questa nazione. Ascolta, si due rapper che non mostrano pecche. Spacciamo stecche più cibo per le orecchie. Qui la gente sorda ancora così tanta. Nuova generazione nata inizio 90. Io continuo serio sopra un suono che ti offende. Da solo assieme ai miei compagni di merenda. Ogni pezzo che ti do è fisso, un colpo al setto. Assieme a trama ti devastiamo sotto ogni aspetto. E voi restate freschi nella vostra ignoranza. Ma da Messina City vi portiamo la sostanza. Cassa di risonanza, il boom bap e assisto. Fedenze di stile come non ne avevi viste. Fra c'è trama man insieme a Rada Man. Spaccano cucuzze tipo Sandokan. Qua il suono piace più ruvido. Sale per il culo del DJ Mario stupido. Ho una fissa iconoclasta che spara a vista al fascista che è la suca con mamma e lissa. Rischia chi si mischia non entrando giù una minchia. Quando il flow che lo fischia kawabanga come ninja. Fra il BPM nel sangue, DJ Resident già si è cagato le mutande. Dalle strade butto sangue, le vivo. Sono ambientazioni tipo Resident Evil. La mia gente lascia firme ma non so se puoi capire. Noi lasciamo queste rime ma non so se puoi fruirne. Se sei serio, se sei alzare il dito medio, se vuoi stare sull'attenti, schierati con i perdenti, pentiti. Ignora la ragione, io voglio risposte più che buone, ne voglio. RSI 666, la missione 666, 666, distruttori di cone. Connessione in prima linea per le masse. Fra le nostre liriche sono sempre più grasse. Rime sature, iconoclaste. Serriamo le file, perché è così che va, questione di stile. Radio Trama Man, siamo qua pronti a fare fire su questa città. Radio Trama Man, Trama Man, Trama Man, io lo faccio solo per chi dice vai fra. Zero dara ri, zi con sa. Qui si muove il culo solo col gran rat. Porto l'umiltà di chi ne sa. Zero puttanate, solo realità.